Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. La notizia è arrivata sabato scorso al Festival dell'Energia che si è tenuto a Roma, durante un dibattito nel quale si ragionava su come far crescere la consapevolezza della gente nei confronti del risparmio energetico. E appunto in questo contesto che è filtrata una notizia che ha fatto molto arrabbiare i presenti. Parliamo delle detrazioni fiscali del 55% per efficienza energetica che saranno prorogate fino a fine anno, ma con alcune variazioni che il governo sta appunto valutando. E qui veniamo al dunque. A Roma c'era Federico Pedrocchi che ha intervistato Rosa Filippini, presidente di Amici della Terra, e anche colei che appunto ha dato la notizia nel corso del convegno. Sentiamo. Sui tavoli dei nostri governanti è in discussione un provvedimento che vi fa molto arrabbiare. Ecco, allora di che cosa si tratta? Allora, stiamo parlando del bonus fiscale per gli provvedimenti per l'efficientamento energetico degli edifici, che sarà prorogato per altri 6 mesi. Allora, diciamo subito che continuare a prorogare questi bonus fiscali di 6 mesi in 6 mesi serve a molto poco. Perché in 6 mesi sfido chiunque degli ascoltatori a convocare un condominio, è quasi impossibile, è addirittura già difficile parlare con l'amministratore e convincerlo, figurarsi a convocare. Quindi si convoca una riunione di condominio, non si riesce nemmeno a prendere la decisione, poi bisogna convocare l'impresa, bisogna fare l'offerta, insomma è molto più complicato di così. Quindi in realtà una misura che viene continuamente prorogata non riesce davvero a dare pochissimi effetti. Bisognerebbe invece decidere di stabilizzare la misura, mettiamo di qui al 2020, allora ha un senso, o quantomeno 2-3 anni, ecco, è veramente una questione di buon senso, no? Dall'altra parte, questa misura all'articolo 4 è stata inserita nel recepimento di una direttiva europea sull'efficienza energetica negli edifici, direttiva che dobbiamo recepire, insomma, che va bene recepire in questo periodo. Nell'ambito di questo recepimento viene inserito questa proroga del bonus, ma con una sorpresa. All'articolo 14 si dice che tutti possono usufruire di detrazioni, cioè tutti gli interventi di efficientamento di detrazioni per il 55%, tranne le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, e anche gli scaldacqua, la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con gli scaldacqua a pompe di calore. Stiamo proprio parlando di tutte le tecnologie più innovative da parte di un'industria italiana che, nonostante la crisi, continua a tirare ed esporta moltissimo. Allora, sembra quasi che gli si faccia un dispetto, ma perché? Non se ne capisce la ragione di questa misura. Le pompe di calore, tutti gli osservatori e gli esperti sono d'accordo, sono uno degli strumenti per l'utilizzo di energia rinnovabile più efficiente in assoluto. È una tecnologia che si è affermata da sola anche senza incentivi, ma questo non è un buon motivo per penalizzarla, dovrebbe essere un buon motivo per invece rafforzarla e, come dire, fondare su di esso il raggiungimento degli obiettivi del 2020. Invece si fa il contrario: quelli che non sono efficienti si continua ad incentivarli magari fuori misura, come abbiamo visto, abbiamo fatto grandi disastri col fotovoltaico e con l'eolico, e invece le tecnologie che danno una mano all'industria italiana più innovativa, più efficiente, più utile e che ci potrebbero davvero portare a un'innovazione molto utile negli edifici li penalizziamo. C'è una gravità in sé, ma poi qui in questo dibattito al Festival si discuteva anche di quali sono gli strumenti, e sono diversi, che servono a far crescere la consapevolezza da parte dell'opinione pubblica, quindi dei cittadini e cittadine, in un uso intelligente dell'energia e nei nuovi strumenti. E certo, un modo per sviluppare questa consapevolezza, avete detto voi tutti, è anche quello con delle leggi di far capire ciò che è importante e ciò che non lo è. con delle leggi coerenti e con degli strumenti selettivi. Ora, il Presidente del Consiglio Letta, nel suo discorso programmatico, ha parlato proprio di affrontare questo tema dell'energia rinnovabile, delle scadenze del 2020 in una chiave e delle politiche di incentivazione, che non sono necessariamente politiche economiche, di incentivi economici. Allora, i veicoli generali per far arrivare alla gente la necessità di rinnovarsi sono quello economico in primis e quello ambientale. Allora, le politiche climatiche, le politiche internazionali ed europee, gli obiettivi europei del 2020 sono stati molto utili per veicolare alcuni messaggi, ma ci siamo fermati alla superficie. Gli strumenti buoni e gli strumenti cattivi. Centrale a carbone cattivo, fotovoltaico buono. Ecco, tutto questo è molto poco e serve a niente. Tutti i sistemi di produzione dell'energia possono essere più o meno efficienti ed è soltanto in questa chiave, quella dell'utilizzo razionale dell'energia, che si attua un miglioramento anche per i consumatori. Allora, precisiamo, l'esclusione delle pompe di calore dal bonus fiscale non sarebbe di per sé del tutto priva di logica. Infatti, per incentivare le pompe di calore e anche tutte le altre rinnovabili termiche, è entrato in vigore alcuni mesi fa il conto energia termico, un meccanismo per cui sulla base di un calcolo forfettario dell'energia termica rinnovabile che ognuno produce, si riceve una certa cifra dal GSE, il gestore dei servizi energetici. Dove sta il problema? Il problema sta nel quanto. Calcoli alla mano, il conto energia è davvero poco generoso se parliamo di pompe di calore. Un fatto che avevamo segnalato già al varo del decreto sulle rinnovabili termiche proprio qui a Smart City. Così il 55%, che oltre a essere più generoso e anche più facile da ottenere perché richiede meno burocrazia, ha finito poi per rappresentare l'opzione di gran lunga preferibile nella stragrande maggioranza dei casi. E ora la possibilità di scegliere non ci sarà più, con naturalmente anche qualche danno per la filiera industriale delle pompe di calore. Lascio giudicare ad ognuno di voi. Noi ci diamo appuntamento a domani.